Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Ondivago parte questa volta con un brano musicale di un valente artista croato, Fortadelis, proprio prima di immergersi nel mondo dei libri. Ondivago ha intervistato Inge Feltrinelli. Inge Feltrinelli non ha bisogno di presentazioni. L'abbiamo incontrata all'apertura della 100ª libreria Feltrinelli alla stazione di Torino Porta Nuova. Lasciamo a lei la parola. Ha avuto una mappa di... Vuole una mappa di informazione sulla libreria? No. Più che altro vorrei sapere se cosa ne pensi di questa nuova creazione. Ma questa è una grande avventura, perché è la seconda grande libreria di stazione in Italia. La prima abbiamo aperto a Napoli, una grande sfida, e trovo un posto che può essere a Bruxelles, a Parigi, a Londra, a Berlino. È molto grande, moderno, avanguardia, pieno di libri, musica, DVD e cose interessanti, cartolibreria, cibo biodinamico e un grande divertimento. Io credo che questo può essere attraente per i giovani, i vecchi, per grandi lettori e grandi amici di musica di tutti i colori. Io credo che questa è una sfida. Va bene, funziona questa avventura. Allora, grazie di aver per questa centesima Feltrinelli. Le librerie sono cambiate tanto nel tempo, adesso abbiamo un po' di tutto, anche grazie a lei. Grazie. Buona serata, grazie. Arrivederci. Grazie. La Feltrinelli Express di Torino è sicuramente un luogo ampio che offre un servizio notevole ai lettori, agli amanti della lettura. L'orario va dalle 7 alle 22 ed è al passo coi tempi. Ma ci chiediamo, ci sarà veramente qualcuno pronto ad acquistare un libro alle 7 di mattina? È vero che c'è un'area con prodotti naturali, succhi di frutta e biscotti, ma non si tratta certo di una classica caffetteria italiana. Pare che questa struttura, inaugurata da poco, abbia una veste di rappresentanza per quello che ormai è un vero colosso nella vendita dei libri, superiore anche a Mondadori. Si tratta della quinta libreria Feltrinelli a Torino, e la centesima in Italia, come abbiamo detto, e fra poco lo stesso gruppo vuole lanciare anche un progetto di franchising, quindi affiliare dei librai indipendenti. Si rafforza quindi la grande distribuzione in Italia, favorita anche da provvedimenti governativi. Quindi, se da un lato è bello entrare in un ampio paradiso del libro, c'è da chiedersi come resisterà il piccolo libraio, quello capace di fermarsi a parlare col cliente, consigliarlo, magari offrire un caffè. Quindi, diamo uno sguardo anche al mercato e alle cifre. Abbiamo detto, appunto, dei principali leader nella vendita di libri in Italia. Ora c'è da chiedersi quale sia la situazione degli editori. Quindi la fetta più grande, diciamo, del fatturato dell'editoria va a Mondadori. Segue poi Rizzoli e poi ancora Feltrinelli. Ma in particolare il gruppo Mondadori e Einaudi detiene la maggioranza del fatturato e quindi appartiene anche ad un unico grande proprietario che conosciamo. Al secondo posto abbiamo Rizzoli. Quindi gli attori della grande editoria italiana potrebbero sedersi tranquillamente al tavolino di un bar. Che cosa ci dicono i dati sulla vendita dei libri relativi al 2009? I dati del rapporto dell'Associazione Italiana Editori ci dicono che cresce la letteratura per ragazzi e l'ebook in Italia. I lettori più forti, secondo questa fotografia, sono giovani, donne spesso, e risiedono in prevalenza al nord. La buona notizia è che sarebbe in aumento anche il numero di coloro che leggono un minimo di libri l'anno. Quindi sarebbe in fase di crescita quello zoccolo duro di lettori. Si conferma il ruolo dei grandi gruppi editoriali e l'interrogativo è: la crescita dei grandi gruppi può mettere in seria difficoltà la democrazia e la libera diffusione del sapere? Anche il piccolo editore o il piccolo libraio deve avere l'opportunità di avere un mercato, di essere visibile, di svolgere la sua attività non solo economica ma anche quindi culturale. Lasciamo questo quesito aperto e passiamo all'incontro con l'autore. Si tratta di Roberta Lepri, che presenta La ballata della mamma nera, edita da Vagliano Editore. È l'esempio di un'opera scritta bene, essenziale, dinamica, con una tematica non semplice, però trattata senza stereotipi di sorta. Quindi un'opera che sta emergendo grazie alle sue qualità. È un buon segno. Roberta Lepri poi è un'autrice gentile, con molto bon ton, cosa che fra gli scrittori, anche i meno noti, è ormai rara. Vorremmo sapere qualcosa noi di Ondivago sul tuo libro, visto che lo presenti qui a Torino. Che cosa tratta, visto che chiaramente alcuni sapranno della trama e altri no. Allora, La ballata della mamma nera è un noir di ambientazione italiana e si svolge in una provincia, diciamo in un non luogo. Si può facilmente identificare una provincia toscana, dal momento che comunque io vivo in Toscana e quindi sono i luoghi che mi sono più familiari. Ed è appunto la storia di un mistero, del ritrovamento del corpo di un bambino nei pressi di un campo rom. Il mistero e il giallo, il noir è funzionale a raccontare il pregiudizio, la paura, tant'è che questo libro che ho dedicato a mio figlio Dario cita appunto come dedica una frase di Goethe che dice: un giorno bussò alla porta la paura, andò ad aprire il coraggio, non trovò nessuno. Quindi la paura vive dentro di noi fino al momento in cui noi non abbiamo comunque la voglia, la capacità di aprire la porta. Nel momento in cui la persona che abbiamo di fronte non c'è più sconosciuta, finisce anche la paura. E questa storia è vista con gli occhi del figlio di un poliziotto e di un suo coetaneo rom. Naturalmente della trama non ti posso dire niente perché trattandosi di un giallo, però diciamo che se arriverà un grande colpo di scena finale, il ritmo è molto molto veloce, molto concitato. Tra l'altro il libro è stato opzionato da una casa di produzione cinematografica, quindi con un po' di fortuna nell'arco di qualche tempo magari ne faranno una fiction o un film, quindi lo potremo anche vedere in TV. Il tema è molto attuale da quello che vedo. Sì, il tema è molto attuale perché casualmente il libro è uscito proprio nel momento in cui c'era questa grande tensione tra la comunità rom e la comunità dei non rom, le espulsioni in Francia subito dopo. In effetti sta andando benissimo, perché se consideri che è uscito ad aprile è già stato ristampato, sta finendo anche la ristampa di questi tempi. È stato tradotto in vista? Non ancora, ma so che lo stanno proponendo a degli editori francesi, proprio perché insomma il tema è molto attuale. Magari la visione di una scrittrice italiana può essere anche diversa. Sì, naturalmente, perché credo che comunque sia molto dipenda molto dal luogo. E dove dipende molto di preciso? Ma diciamo che nella provincia toscana, però vabbè, si può riconoscere Grosseto, che è la città in cui io vivo. Ma diciamo che se ne perdono rapidamente le tracce comunque del luogo preciso, perché è una storia che con queste modalità interessa molti, molti luoghi della nostra nazione. Okay, ti ringrazio. Grazie a te, Max. Ondivago vi offre una doccia di vocali e consonanti. Passiamo ora alla pedagogia linguistica con Gabriele Cacciari, vivace professore, classe 1929, che ha pubblicato L'inganno linguistico, Abilux Edizioni. Gabriele Cacciari si occupa di pedagogia linguistica. La pedagogia linguistica considera lo studio di una lingua, propria o straniera, un mezzo didattico, quindi non il fine primario del suo insegnamento. L'analisi del linguaggio della pedagogia linguistica permette di comprendere che la codificazione formale, senza riconoscere la cultura di formazione, può produrre degli effetti negativi. Quindi parole come guerra, libertà, democrazia possono diventare degli strumenti ideologici se sono slegati dalla loro base culturale. Ma ora sentiamo Gabriele Cacciari. Come le dicevo, abbiamo avuto la fortuna di intercettare il suo libro a Bologna e quindi di cominciare a a tentare di capire che cos'è la pedagogia linguistica e di che cosa si occupa in qualche modo. Ecco, diciamo, io sono laureato in pedagogia, ma fondamentalmente, cioè la mia preparazione è stata quella di linguista, no? Uh-huh. Io mi sono sempre interessato, anche proprio iniziato da bambinetto, a interessarmi delle lingue, cioè del modo con cui si comunica. Quindi la pedagogia linguistica, che possiamo dire una disciplina un po' che nasce un po' così recentemente, è il tentativo di spiegare una lingua e apprenderla non come, diciamo, fine, no? Per dire essere un poliglotta, no? Ma come linguista, cioè come mezzo per poter capire come effettivamente si comunica, che cosa si dice la gente, o perlomeno quello che la gente crede di dire quando parla in un certo modo. Quindi la corrispondenza con la in qualche modo un'attività di verità per la esatto, sì, nel libro, adesso sto facendo la seconda edizione, nel libro ho spiegato nella seconda edizione in un capitolo cosa si deve intendere per verità. Purtroppo il postulato su cui poi si basa il libro è che ogni lingua, per poter esprimere se stessa, ha bisogno di una determinata cultura, quindi la lingua nasce da una cultura e la cultura coerentemente si deve servire di questa lingua per poter chiaramente esprimersi, no? Coerentemente, perché altrimenti cosa succede? Quando noi purtroppo parliamo, diamo un significato linguistico alla parola, può essere, non so, parafango, paraurti, oppure eccetera, dove si capisce chiaramente dal puro aspetto linguistico l'importanza della parola in se stesso, che si spiega per se stessa, mentre l'aspetto culturale purtroppo è qualcosa che rappresenta una interpretazione sulla base di una esperienza, però che ha alle sue spalle una determinata cultura. Facciamo un esempio, no? Macroscopico, perché così si capisce meglio. Cioè, una parola come festivo, no? In latino festivus ha dato l'italiano feriale, no? Quindi il significato feriale della parola vuol dire lavorativo. E questo in contrasto con la cultura francese, anche quella spagnola, dove ferie, no? Oppure feriado in spagnolo, vuol dire semplicemente un giorno, il dia feriato è un giorno, diciamo, festivo. Perché? Perché la ricorrenza religiosa settimanale ha fatto sì che si festeggiasse il patrono, il santo, no, del giorno. Siccome non si può sempre fare festa da un punto di vista sociale, allora chiaramente bisogna lavorare anche in questi giorni festivi. Capito come si è sviluppato? Sì, sì, è molto interessante, ma che rapporto, è una disciplina che poi va a interessare anche altri ambiti di studio, mi viene in mente l'antropologia culturale, forse. Però quello su cui si basa il libro sono tre presupposti, la lingua, la cultura e la moralità, cioè parlando, io ho fatto un articolo anche sulla politica, no? E quindi in generale ho detto, che lo dice anche... Non è che io dica delle cose, diciamo, stravaganti, no? L'ha detto anche Platone nel suo capitolo quinto della sua Repubblica, dice che per governare ci vorrebbero dei savi, no? Delle persone sagge. E io ho aggiunto che del proprio modo di essere si fondasse sulla cultura per poter conoscere, sull'intelligenza per poter scegliere e sulla moralità per fare le cose, diciamo, che siano giuste, ecco, hai capito? Ecco, questi tre elementi di base comportano poi un modo di parlare, cioè un comportamento verbale particolare, che è quello, diciamo, di aderenza alla realtà, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono le basi da cui nasce il libro, e ho cercato di spiegarvi, far vedere come effettivamente parlare una lingua, questo c'è un risvolto, diciamo, anche sociale, parlare una lingua e credere di potersi comportare in un determinato modo è sbagliato, perché il comportamento sociale non dipende tanto dalle parole con le quali io mi esprimo, quanto piuttosto dal comportamento che ho, quello attuale, quello pratico. Per cui se io posso parlare in diversi modi, io mi comporto sempre in un unico modo, perché non può essere diversamente. Insomma, o esco, o sto in casa, o vado fuori, o vado a fare qualcos'altro, dipende sempre evidentemente da una scelta che ha una direzione ben precisa, è chiaro questo, no? Tutta la musica contenuta in questo numero è Creative Commons, come la sigla finale che contiene un brano di Kevin MacLeod. Speriamo di avervi dato nuovi spunti di riflessione, aver aperto delle piccoli varchi nel sapere, e vi diciamo a presto con le nuove scoperte e sorprese di Ondivago. Ondivago vi offre una doccia di vocali e consonanti. Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info ondivago.blogspot.com. Email ondivagoradio@gmail.com.